24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Maggio è stato bersaglio del lancio di, non c'è la notizia, non ce l'ho qua, ma l'ho vista ieri al telegiornale. Lo sa lei che a Fassino gli hanno tirato le uova? No, non lo sa, ma poraggio, ma no, non per niente, non era per male, ma perché i torinesi gli hanno detto: a Fassino devi mangiare. E vabbè, iniziamo così, sì, con Fiorello, devi mangiare Fassino, così le uova lanciate dai torinesi al sindaco di Torino, le contestazioni al PD. Vabbè, buongiorno e ben ritrovati cari ascoltatori, siamo qui 24 mattino, c'è Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè è già sui cursori per la regia e quindi possiamo aprire subito il Parlamento? Ebbene sì, il Parlamento apra. Nicole Minetti, il caffè volentieri a tutti quanti. Annoiata perché non sa che fare la mattina quando si sveglia, però è qua sempre a offrirci il caffè. Barman generosi come Santa Claus, li paghiamo noi e con quello che paghiamo voglio bere tanto da tornare storto come il dottor House. Questi, perché me lo chiedo, sono i Two Fingers che cantano questa canzone che si intitola appunto Parlamento, è diventata la nostra sottosigla e parlano del Parlamento, quella roba lì, insomma, del nostro Parlamento e di quel Parlamento. Vabbè, insomma, voglio salutare Vladimir Luxuria, buongiorno, ben ritrovata, eccoci. Buongiorno. Torna, grande richiesta anche dei nostri ascoltatori, non lo sa, ma dicono, ma quando è scomparsa? Dove è scomparsa? No, eccola qua con noi, lotta insieme a noi. Saluto anche Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, buongiorno, ben ritrovato, eccoci Maurizio. Buongiorno, buongiorno. Panorama che esce oggi, perché debosciati avete fatto il 1 maggio. Che no, no, avete... ovviamente c'è un giorno di distribuzione in meno, quindi è chiaro, è chiaro. Giovedì esce. Ah, pensavo foste tutti al concertone del 1 maggio e quindi... è qui. Ma no, come magari, dai. Allora. Io mi sono solo inalberato leggendo i giornali e ve la sottopongo subito così. Preiti, avete presente ovviamente. Ora, io quando l'ho letta su Repubblica volevo stracciare il giornale dalla rabbia. Preiti ha detto così: la notizia che quella ragazza era rimasta senza mamma 3 mesi fa e che ora per colpa mia rischia di perdere pure il papà mi ha devastato. E quindi gli ha scritto una lettera. Preiti alla figlia di Gian Grande. Maurizio, il mio primo pensiero è stato veramente di volere, non so come dire, contorcere Repubblica, che mi dava questa notizia, cioè è una notizia, quindi non c'entra niente Repubblica, ma contorcere la pagina di Repubblica per contorcere Preiti stesso. Ma in che paese siamo? Cioè, questo spara in faccia a una persona da 1 metro e poi si dispiace nel sapere che la figlia di costui aveva perso anche la madre di recente, quindi sì, mi ha devastato questa cosa. Viene da dire che è un mentecatto, ma uso un termine antico ma assolutamente efficace, ma i magistrati della Procura di Roma che l'hanno indagato non chiedono neanche la perizia psichiatrica, quindi evidentemente il mentecatto non è. È un uomo confuso. Devo dire che di uomini confusi al momento ce ne sono tanti. Sì, Leggi sì. Cosa dice, cosa ha detto alla Zanzara, il presunto ideologo del Becchi, appunto, anche lui è confuso. Uno che dice: beh, perché la critica delle armi un tempo la usava anche Marx, ma erano altri tempi. Insomma, uno che dice, non è ingiusto prendere in mano i fucili. Ma è chiaro. C'è un impazzimento totale su questa vicenda, no? Non so, vorrei che Vladimir Luxuria, c'è un impazzimento, cioè questo è un non sappiamo bene il gesto, il motivo del gesto che l'ha spinta a fare, ma questo di fatto, come si vede nelle foto, ha sparato a un carabiniere da 1 metro, ad altezza testa. E poi adesso dice: scrivo alla figlia di questo, che mi devasta l'idea che... Ma come mi devasta? Ma sei stato tu a sparare, o no, Vladimir? Che dobbiamo dire? Beh, non è che ci doveva pensare prima, nel senso che qualsiasi persona che attenta alla vita di un altro deve pensare che questa cosa procura delle sofferenze da parte di tutte le persone che o sono legate da un legame affettivo a questa persona, cioè come può dire mi dispiace adesso, dopo che abbiamo visto la foto, abbiamo visto benissimo il braccio alzato e la pistola puntata proprio con l'intenzione di uccidere, neanche di ferire, ma proprio di uccidere un servitore dello Stato. Quindi questi pentimenti postumi mi danno solo l'idea di uno che vuole avere qualche attenuante, qualche anno in meno, qualche decisione più clemente da parte del tribunale. Poi per quello che riguarda, diciamo così, questo periodo di impazzimento generale in cui si cerca di, no, prendiamo i fucili, diciamoci a fare con i fucili, sì. Insomma è una vecchia storia purtroppo del nostro paese. Io ricordo anche lo stesso Bossi che, insomma, detto che a un certo punto il popolo leghista ha i fucili nascosti e sono pronti a prenderli. La cosa che mi disturba è che poi Bossi, più che a essere inchiodato su questa frase, è stato fatto fuori per questioni legate a scandali economici, soprattutto anche abbiamo visto ultimamente, insomma, su come, dove andavano a finire barche, yacht. A meno, anche se lui dice no, non mi ha detto il figlio che non c'entra niente con questa barca, la famosa barca a sua insaputa, insomma, chi non ha uno yacht da 2,5 milioni? Come Preti a sua insaputa non immaginava che il suo gesto avrebbe potuto procurare danno a una persona. D'altronde, se spari e da un metro in faccia, poi dopo ti dispiaci, se dispiace moltissimo. Io veramente sono... Maurizio, non per iniziare col sangue amaro. Ovviamente, no, quando ho letto questa cosa avevo una rabbia dentro che non lo so. D'accordo, no, io condivido pienamente la rabbia, però Alessandro, c'è un punto fondamentale, secondo me, che è legato a tutto questo. Voi parlate di Bossi, era un'altra epoca indubbiamente, però ultimamente io ho l'impressione che la violenza sia distillata e titillata moltissimo dall'utilizzo di mezzi informatici che un tempo non c'era. E come no? E che permettono in maniera spesso anonima di dire, scrivere e proclamare cose che uno forse ha volto libero. A volto non deve. Guarda, Maurizio, mi dai un assist clamoroso, se ovviamente tu non lo sapevi, ma oggi, perché non avrei, ti sarai svegliato da 5 minuti, ma oggi su Repubblica c'è un'intervista. C'è un'intervista a Laura Boldrini. Allora l'hai letta. È lì che volevo andare. Certo, perché oggi Laura Boldrini, presidente della Camera, fa uno sfogo, una lunga intervista, una lunga chiacchierata con Concita De Gregorio su Repubblica. Io l'ho letta e sono rimasto scioccato, anche perché Concita De Gregorio usa volutamente, fa sapere le minacce che ha ricevuto Laura Boldrini, che dice: io minacciata dalla rete, da ogni giorno, non voglio scorte, ma in quanto donna soprattutto. Senti Vladimir cosa scrivono a Laura Boldrini, racconta Concita De Gregorio: mi riempiono di immagini che mi arrivano via mail, fotomontaggi, mi invitano e mi dicono ti sgozzeremo, ti stupreremo, inviti alla sodomia, abito a 30 chilometri da te, ti chiuderò in una stanza, ti legherò, ti userò come orinatoio, morirai affogata. Insomma, e poi tutto insulti, soprattutto a sfondo sessuale. Questo lungo sfogo di Laura Boldrini, dico basta all'anarchia del web, dove appunto dietro anonimato arrivano messaggi di tutti i tipi. Vladimir, anche questo è un problema, però non possiamo fare i censori a dire la rete va censurata, ormai è una battaglia persa in partenza, no? Però che fare di fronte a questo tipo di situazione? Però ci sono tutta una serie di persone, che i rivoluzionari coraggiosi dietro le tastiere, no? Cioè quelli che dietro l'anonimato della tastiera minacciano. Per fortuna, per esempio, su Twitter c'è la possibilità di bloccarli, perché non nascondo che anch'io, insomma, non è che ho sempre ricevuto rose e fiori, ecco, anche quando ero stata in Parlamento, dalle scritte alle minacce, quindi so che cosa vuol dire. Però forse bisogna anche pensare che non bisogna demordere quando si hanno queste minacce, cioè sono dei vigliacchi che non hanno il coraggio di metterci la faccia, che lo fanno. Però insomma, in qualche modo la possibilità di poter segnalare, insomma, persone che, insomma, questa eccessiva impunità sotto comunque il nome della libertà della rete. Non va bene, non ma infatti, ma infatti, no, tanto, ma infatti Boldrini annuncia una legge. Ecco, ma che tipo di legge potrebbe fare Maurizio? Perché cosa può fare? Mica possiamo tornare, voglio dire, alla censura, questo no. Certo, se uno commette un reato, c'è la polizia postale, può andare a beccarti. Altrimenti persino la pedopornografia non dovrebbe essere, no, ma infatti, voglio dire, punita. È uno strumento che si espone a troppo anche ad estrema libertà. Ecco. Da giornalista io sono sottoposto a delle regole vincolanti, voglio dire, non solo deontologiche ma anche penali, è evidente. Io non capisco perché queste regole debbano valere per me che scrivo sulla carta e improvvisamente non debbano valere per me che scrivo sul web. Sono la stessa persona, perché io sul web posso incominciare a lanciare minacce, a scrivere testi diffamatori e a fare qualunque tipo di reato. No, io sul web, cioè scrivendo su internet, dove sì, ma c'è già una legge, cioè se io scrivo che Maurizio Tortorella è un farabutto, ladro, e ho un sito, tu mi puoi perseguire tramite polizia postale. Sì, è un po' più complicato ovviamente, mi puoi bloccare, mi puoi denunciare. Ci sono però dei meccanismi che mi impediscono o rendono quasi impossibile l'accertamento della mia identità. Certo, a volte sì, a volte sì. Sì, poi si potrebbe però creare un filtro, una serie di elementi cogenti che possono bloccare questo tipo di attività. Secondo me io non vedo niente di... No, niente di male, ma l'argomento non è facile, non è facile, sì, perché non può, proprio non, perché non la... No, no, ma questo sì. Libertà di stampo, della libertà di espressione, questo non certo. Puoi trasformare una cosa... Sì, ma sembra un po' una battaglia persa, perché purtroppo l'idiota trova sempre il modo per aggirare i controlli e fare quello che vuole. Beh, è il brutto e il bello della libertà del web, insomma. Esatto, e devo dire che sulla difficoltà di arrivare alle fonti di chi scrive ci sarebbe anche da aprire un capitolo anche su chi intende la democrazia come quella democrazia virtuale, quindi le quirinarie, leggere, fare le tutto attraverso il web. A proposito, hanno fatto la squadra di governo Vladimir Luxura, c'è anche Micaela Biancofiore, sottosegretario, che qui cantava con la cagnetta dalla Zanzara, con la cagnetta Pughi, gli insegna a cantare meno male che Silvio c'è, la cagnetta che pare che sia così canterina. Voglio dire che Letta ha usato durante il suo discorso di presentazione alla Camera la metafora di Davide e Golia, no? Io credo che avrebbe dovuto usare la metafora dell'arca di Noè oggi come oggi. L'arca di Noè! Ma sì, perché li ha fatti salire tutti in coppia, cioè tutti. Uno PD e uno PDL. E per forza tutti quello i ministeri è. Che avevano capito, PD i sottosegretari. Ho capito, PDL. Vladimir, ma è quello, è il governo delle larghe intese. Loro stanno sull'arca belli al salvo, non lo so il resto come se la vedrà, capito, in questo... Come direbbe Geppi Cucciari? Del resto piove, governo di larghe intese. Piove, governo di larghe intese. No, ma allora... No. Pari opportunità, capisci? Cioè, una per parlare di donne e per parlare... Le pari opportunità si dovrebbero interessare anche delle pari opportunità per orientamento sessuale, generalmente anche questo è il ministero. Cioè metterci la Biancofiore è come mettere presidente di una commissione dell'infanzia Erode, cioè la stessa cosa. Ecco, di Tortorella ce l'ha con la Biancofiore Vladimir Luxure. Poi c'è anche un'altra nostra amica, Ilaria Borletti Buitoni, che abbiamo scoperto ha dato 710.000 euro come donazione privata a Scelta Civica. Oggi al Fatto dice: è stata una cosa al di sopra delle mie possibilità finanziarie. Ed è sottosegretario alla cultura. Per carità, non associo le due cose. Immagino tutte le donne che fanno satira, che fanno le imitazioni sulla La Borletti Buitoni. Tra poco recuperiamo Crozza. Dopo, no, ce l'abbiamo già. Crozza, sentite, lo ricordate? No, lei Ilaria Borletti Buitoni, che insieme a Lidia Rotavender vanno storte così. E poi c'è Paolo Vitelli. Maurizio, andiamo alle informazioni sul traffico, poi rientriamo con la segreteria telefonica. Ecco, hanno massacrato anche me in segreteria telefonica dopo. 24 mattino. Buongiorno Alessandro. Quel prete poteva pazientare un tantino di più e avrebbe avuto l'opportunità di incrociare un deputato risparmiando i due carabinieri e probabilmente salire sul podio dei vendicatori. Io non so se nell'Islam ci sia l'equivalente dell'Eucarestia, ma se quel giocondo coglione che ha parodiato vergognosamente l'Eucarestia avesse fatto lo stesso con un simbolo altrettanto potente dell'Islam, adesso noi saremmo in guerra anche con Sumatra. Oh, caro Milan, io ti chiederei solo una cortesia, di dire ai colleghi giornalisti di non cominciare a compatire il povero Preiti, poverino qua, poverino là, è un delinquente, punto e basta, bisogna sbatterlo in galera e bisogna buttare le chiavi. Sono Carlo, caro signor Milan. Sarai anche bravo, sai, ma hai un po' la coda di paglia, perché i messaggi scomodi non li leggi mai e non li mandi mai in onda. Guarda, per me sei un po' a mezzo tra il democristiano e lo stalinista. Allora, caro Milan, tu commenti i giornali, e però sai che c'hai di bello? Che ti commenti da solo, perché uno che prende in giro il concerto del primo maggio, che io ho visto tutto e sentito tutto alla veneranda età di 60 anni e mi sono divertito, e poi ospita la Polverini, fascina, fai le battute col vice direttore di Libero, ti commenti da solo, caro Mila, e fai un po' penetta, un po' penetta. Volevo dire ai signori della finanza che non devono andare davanti ai negozi di alimentari, ai fruttivendolo a beccare la vecchia col 6 pomodori per fare la multa di 300 euro. Devono andare nelle grandi aziende, lì beccano i miliardi, asini! Asini, non avete capito niente, dove sono i soldi? Non sono dai Poaretti! Sveglia! Sveglia Italia! Vabbè, questa è la nostra segreteria telefonica, siamo con Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, e Vladimir Luxuria, che tra l'altro ricordo sempre sulla 7 conduce Fuori di Gusto la domenica alle 11. Maurizio, i sottosegretari, ce l'ha fatta Fassina, Fassina all'economia, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta anche Della Ringa, che è un ah, bravo, bravo. Del, sì, certo. Del lavoro. Si parlava di già di ministro quando c'era Monti, sì, poi non ce l'ha fatta. No, indubbiamente c'è del buono e del meno buono, per carità. Il nostro grande ascoltatore, il sindaco di Basiglio, ce la fa, Cirillo, sottosegretario all'ambiente, ci ascolta sempre, lo salutiamo, è diventato sottosegretario all'ambiente, non lo so, ma il comune più ricco d'Italia, passa sempre alle cronache per questo, Cirillo. Ce l'ha fatta De Luca anche, sotto il sindaco di Salerno, è sottosegretario ai trasporti. Non ce l'ha fatta Lino Milan, sottosegretario. Abbiamo lanciato la campagna su Twitter. Ora puntiamo a sindaco di Roma. Io, va bene, sono di Milano, ma faccio il sindaco. Per una seggiola faccio il sindaco anche a Roma. Anche Marino è genovese, ma è sindaco di Candidato. Esatto. Comunque, Panorama, che punta su La Ruletta oggi. Gran titolo, La Ruletta. Perché quanto dura Letta? Facciamo la previsione. Oggi Libero dice che dura 6 mesi. I bookmaker anche puntano a 6 mesi. Tu, Maurizio, che dici? Ma indubbiamente sulla sua strada, come appunto abbiamo scritto, ci sono tante trappole. È una strada disseminata di trappole, dalla riforma della giustizia all'IMU, che già si è visto essere un punto dolente e capace di provocare grandi attriti. Sai, l'ottimismo e le speranze sono quelle che riesca a fare le cose per cui è nato, cioè alcune serie riforme di carattere economico, alcune serie riforme di carattere diciamo più che altro estetico. La legge elettorale e poi fuori dalle balle. E poi sì, si torna con la divisione ovvia tra... Sì, ma dai, cioè, ci vuole... Non so, Vladimir, tu che ne pensi? Mi sembra un governo un po'... Ma con tutto rispetto, cioè, no, importanti, dovranno fare cose importanti, però non mi sembra il governo che guardi al futuro, no? Che sia nato per porre le basi per un futuro lunghissimo. A parte che il giovane Letta mi sembra più vecchio della Carrà, perché sinceramente... Ma che c'ha contro Letta? Ma questo sarebbe un giudizio estetico e quindi lo lasciamo stare. Ma perché? Cos'ha di male? È un po' chierichetto, sì, dai. Un po' tartaruga. Tartaruga. Io premetto che non sono neanche, diciamo, in maniera così, per pregiudizio contrario alle larghe intese, in Germania le hanno fatte, però insomma, la Germania è un'altra nazione rispetto a noi. In Germania ricordo che si è dimesso chi era stato accusato di aver copiato una tesi di laurea. Da noi si chiedono le immunità parlamentari anche perché è colluso con la criminalità organizzata. Si tratta di due realtà molto diverse. Io ho già visto questo film, nel senso che il governo Monti era nato per fare le riforme elettorali, bla bla bla bla, e quel governo, anche se c'erano i tecnici, che era retto dal PD e dal PDL, non ce l'ha fatta. Per cui non lo so. Ma perché c'aveva un Parlamento che, guardate la storia delle province, appena gli davano contro subito in Parlamento non passava niente. Cioè, se poi il Parlamento non approva, e lì i veti incrociati, lì quelli che non hanno avuto la seggiola, per esempio, saranno arrabbiatissimi, no? E sentite invece Brunetta entusiasta di Letta. Devo dire bravo a Enrico Letta. Perché subito dopo la fiducia ha avviato un tour sostanziale in Europa per mettere al centro la crescita, la flessibilità. Vabbè, insomma, Brunetta, bravo Letta. Maurizio, è così, nasce così questo governo e ce lo dobbiamo tenere così. Sai, rispetto a quello che dicevamo prima, sulla violenza crescente, in realtà potrebbe avere un ruolo importante e positivo anche sulla, non dico sulla pacificazione, perché in questo paese è difficile, ma sullo smorzamento dei toni. Se centrodestra e centrosinistra provano una volta tanto seriamente a confrontarsi sui temi, senza crollare necessariamente in una rissa. Sì, sarà un bene. Forse è un bene. Sarà che non siamo abituati, ma sembra tutto così finto. Sembra, per carità, mi sembra tutto. Siamo talmente abituati alle telerisse o alle risse politiche che non lo so. Ci vuole, non so, un paio di mesi per abituarsi. Vladimir, tu che dici? Non so se. Non so, c'è già a riflettere sulla possibilità che possano ammorbidire i toni, perché invece io vedo la gente incazzatissima. Sì, la gente sì, però che i politici... Tanto traditi, si sentono, insomma, che abbiamo scherzato finora, cioè c'è stata una campagna elettorale, adesso tutto, abbiamo scherzato, adesso andiamo tutti d'amore e d'accordo, non lo so. Mi piacerebbe sapere anche la reazione degli elettori di centrodestra, perché quelli più arrabbiati mi sembrano finora quelli di centrosinistra. Perché sono quelli che, seppur di poco, hanno vinto le elezioni, erano lì che già pregustavano il governo di cambiamento, quindi sono quelli più delusi. Ma vedremo quanto dura, non lo so, già sull'IMU stanno lì, non lo so, io non vorrei peccare di eccessivo pessimismo e capisco che i problemi sono tanti, però... Non lo so, non mi sembra sinceramente un governo credibile, mi sembra semplicemente che si siano divisi ministri, sottosegretari e abbiano fatto un governo neanche democristiano, perché i democristiani forse erano anche più a sinistra. Sì. Però adesso la nuova disfida è... Maurizio, dimmi che devo chiudere il bar qua. No, che stavi dicendo, Maurizio? Stavi dicendo qualcosa? No, vabbè, comunque devo chiudere il bar. La nuova disfida è sulla presidenza della Convenzione delle Riforme. Berlusconi la vuole, oggi Renzi lo blocca. No, Berlusconi padre costituente. E allora avanza una nuova candidatura, pare. Calderoli padre costituente della Convenzione delle Riforme. Che abbiamo fatto per meritare tutto ciò? Io non lo so. Comunque vi ringrazio, Vladimir Luxuria, grazie a Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, che trovate da oggi in edicola, numero non il giovedì, questa settimana il venerdì, giornale radio. Fassino ieri a 1° maggio è stato bersaglio del lancio di, non c'è la notizia, non ce l'ho qua, ma l'ho vista ieri al telegiornale. Lo sa lei che a Fassino gli hanno tirato le uova? No. Non lo sa? No. Ma poraggio, ma no, non per niente, non era per male, ma perché i torinesi gli hanno detto: Fassì, devi magnà. Sei secco, magnate un par di uova, e gliele hanno tirate. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Quando sono le 7:21 minuti siamo qui a leggere i giornali per voi. Vi ricordo che oggi avremo ospite per parlare di politica alle 8:45 Flavio Tosi, il sindaco di Verona della Lega. Parleremo anche di questa vicenda di cronaca che mi ha davvero inquietato, proviene dagli Stati Uniti, ne parliamo anche tra poco in rassegna stampa, di un bambino di 5 anni che ha preso il fucile e ha sparato alla sorellina di 2 anni per gioco, perché aveva il fucile per bambini. Ci sono aziende in America che producono armi che fanno proprio i fucili per bambini, rosa per le bambine, per darle in mano ai bambini di 4-5 anni. Insomma, questo ha riportato alla ribalta il tema già molto discusso di recente del rapporto tra gli statunitensi e l'uso delle armi. Di questo parleremo alle 8:15, però andiamo con ordine, allora andiamo a leggere i quotidiani che ritornano in edicola dopo la pausa del 2 maggio. In questo venerdì 3 maggio i titoli intanto, molti sono concentrati sulla decisione della Banca Centrale Europea di tagliare i tassi, oppure sulla politica italiana. Draghi, quarto taglio, tassi BCE allo 0,50%, così è l'apertura del Sole 24 Ore. Per Repubblica, tasse, Letta frena, il rigore serve. Il Corriere della Sera, Letta accelera, c'è la squadra, la nomina dei sottosegretari. Per i sottosegretari, anche per il Secolo XIX, il blitz dei sottosegretari. La Stampa invece ha una doppia prima pagina, una è dedicata a Domenico Quirico, oggi è la giornata mondiale per la libertà di stampa, Domenico Quirico inviato da Stampa, non si sa nulla di lui da ormai più di 3 settimane, il dovere di raccontare, c'è la foto di Domenico Quirico, tra l'altro ne parlerà oggi Simone Spezia alle ore 9 di quello che sta succedendo in Siria. Ma poi l'apertura più canonica della prima pagina della Stampa è la BCE taglia tassi mai così giù. Per Libero, Letta non dura, ombre sul governo. Il Fatto Quotidiano invece, eutanasia PD, inciucio, contestazioni e voti in fuga. Il Giornale, i fucilieri di Grillo, le dichiarazioni di Paolo Becchi qui a Radio 24. Il Messaggero, mossa BCE, mutui meno cari. Questo è il titolo di apertura. Il Manifesto, non para il rigore, e c'è la foto di Enrico Letta che secondo il Manifesto non ce l'ha fatta, diciamo, a scalfire l'idea del rigore in Europa, mentre Avvenire apre su Somalia, eccidio ignorato, in 2 anni 260.000 morti per fame, in metà bambini, la metà sono bambini, questa è la denuncia di Avvenire. Oggi voglio partire da due pagine dedicate alla Presidente della Camera, Laura Boldrini. Una è un'intervista che fa a Repubblica, Concita De Gregorio, che certamente farà discutere, perché Laura Boldrini, Presidente della Camera, racconta: io, minacciata di morte ogni giorno, non ho paura e non voglio scorte, ma adesso dico basta all'anarchia del web. È una lunga riflessione di Laura Boldrini che, da esponente delle istituzioni e da donna, riflette sulle minacce che riceve quotidianamente. Pagina 13 di Repubblica, Concita De Gregorio scrive: Laura Boldrini, seduta alla sua scrivania di presidente, legge attentamente i messaggi che la sua giovane assistente Giovanna Pirrotta le porge. Sono minacce di morte, stupro, sodomia, tortura. Accanto al testo ci sono immagini, fotomontaggi, il suo volto sorridente del col corpo di una donna violentata da un uomo di colore, il suo viso sgozzato sul corpo di un'altra donna, il sangue che riempie un catino a terra, centinaia di pagine stampate così, migliaia di messaggi. Insomma, Laura Boldrini si è posta la domanda: cosa fare? Lei dice: io non ho paura. Certo, ho paura quando i fotografi inseguono mia figlia di 19 anni in motorino, ho paura che possa spaventarsi e avere un incidente, però ci sono due temi di cui dobbiamo parlare a viso aperto. Il primo è questo: quando una donna riveste incarichi pubblici si scatena contro di lei l'aggressione sessista, che sia apparentemente innocua, semplice gossip o violenta, assume sempre la stessa forma, la forma di minaccia sessuale, usa un lessico che parla di umiliazioni e sottomissioni, e questa è davvero una questione grande, diffusa e collettiva. E qui tralascio anche i messaggi che dice di ricevere con insulti a sfondo sessuale davvero pesantissimi. Il secondo problema è il controllo del web, una questione che la stessa Laura Boldrini dice so essere delicatissima, non per questo non dobbiamo porcela. Mi domando se sia giusto che una minaccia di morte che avviene in forma diretta attraverso una scritta sul muro sia considerata in modo diverso dalla stessa minaccia via web. Me lo domando e chiedo che si apra una discussione serena e seria. Se il web è vita reale, e lo è, se produce effetti reali, e li produce, allora non possiamo più considerare meno rilevante quel che accade in rete rispetto a quello che succede per strada. Riguardo poi alla scorta, dice: io non ho paura, non ho chiesto, io ho chiesto di non essere scortata, non ho paura di camminare per Roma, non ho paura di andare da casa in ufficio, può accadere qualsiasi cosa in qualsiasi momento, ma certo questo vale per chiunque. Insomma, le riflessioni di Laura Boldrini sulle minacce che riceve anche e soprattutto via web. Laura Boldrini viene intervistata oggi anche da Avvenire e risponde, la cosa che mi interessa di più, soprattutto alle accuse che avevamo fatto anche qui, insomma, avevamo adombrato il sospetto di alcune dichiarazioni un po' giustificazioniste di quello che ha fatto Preiti quando ha detto, lo ha detto varie volte, la disperazione porta a fare gesti, alcuni casi di togliersi la vita, ma in altri casi i gesti, come abbiamo visto in questi giorni, ha detto questo anche, di qualcuno che reca danni ad altri, e si riferiva a Preiti. E infatti Avvenire con Arturo Celletti e Giovanni Grasso, in una lunga conversazione in cui si parla soprattutto di lavoro, un'intervista molto istituzionale, fanno anche questa domanda. Lei è stata criticata perché qualcuno l'ha accusata di essere troppo giustificazionista nei confronti dell'attentatore Preiti. Risponde Laura Boldrini ad Avvenire: sono accuse strumentali e senza senso. È anche triste che in un momento come questo si facciano inutili polemiche su vicende così drammatiche. La violenza non è mai la soluzione, non ci sono mai attenuanti, la violenza va sempre condannata senza se e senza ma. L'ho detto e lo ripeto, e chi pensa che io sia equidistante tra Martina, la figlia del brigadiere Giangrande, e l'uomo che ha sparato a suo padre, distorce la realtà in modo fazioso. Detto questo, dopo la condanna della violenza abbiamo il dovere di farci precise domande. Dobbiamo chiederci se siamo all'altezza delle sfide che la realtà ci pone. Questi gesti disperati, violenti, da dove vengono? Perché sono opera di folli? E le centinaia di suicidi, di imprenditori falliti, di lavoratori senza occupazione, anche tutti questi sono gesti ispirati dalla follia? Insomma, a queste domande Laura Boldrini dice: cerchiamo di dare risposte. Noi, a proposito di violenza, certo è un gesto isolato, non si può neanche dire folle, perché è compiuto da un bambino di 5 anni, e oggi tutti i giornali, che ieri non erano in edicola, giustamente ne parlano, chi con una paginata come il Corriere: uccide a 5 anni con un fucile avuto in dono, è successo nel Kentucky, negli Stati Uniti, dove già c'è la polemica che infuria dopo le tante stragi che ci sono state, l'ultima anche di recente, un paio di mesi fa, sulla diffusione delle armi, la cultura delle armi, che per carità è garantita per Costituzione, ma ora anche il presidente Obama sta cercando di porre un freno a questa diffusione. Ebbene, in Kentucky colpisce a morte la sorella minore, un incidente. Guido Olimpio, a pagina 15 del Corriere, parla in una pagina di questa vicenda, ma tutti i giornali ne parlano. Follia americana, assassino a 5 anni col suo primo fucile, Angela Vitaliano sul Fatto Quotidiano a pagina 13. E sì, era il primo fucile, perché l'azienda che produce le armi ha la sezione i fucili for kids, per bambini, e se lo volete rosa per le bambine, perché così si intona di più al gusto delle bambine. Eccolo qui, il Cricket calibro 22, fatto per i bambini, senza rinculo, perché sennò non riescono a sparare bene. Il fucile giocattolo spacca gli USA, anche Paolo Mastrolilli a pagina 18 della Stampa. Oppure il Quotidiano Nazionale: America sotto shock per il baby killer col mini fucile uccide la sorellina. E anche Libero: i bimbi d'America vittime della moda del fucile. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. E allora eccoci qui alle 7:35 minuti. Allora, hanno composto la squadra ieri un consiglio dei ministri straordinario convocato per la serata, che si è protratto fino a tarda serata. Ed eccoli lì, voilà, 10 viceministri e 30 sottosegretari nominati. D'altronde bisogna comporre la squadra dell'esecutivo totale. Vedete tutti i nomi oggi sui giornali. Ci sono appunto i viceministri, i sottosegretari. Che dire... Vabbè, qualche nome, che quelli che magari sono già stati più discussi sul web, anche qui subito la rete si è mobilitata per alcuni nomi. Intanto i nomi di alcuni ministeri chiave. All'economia ce l'ha fatta Stefano Fassina, che era nostro ospite ieri mattina, sottosegretario, insieme a Luigi Casero del PDL, Pierpaolo Baretta, Alberto Giorgetti della Lega. Poi, le nomine che fanno sicuramente discutere di più sul web sono Micaela Biancofiore, sottosegretaria alle pari opportunità. Prima avevamo Vladimir Luxuri alle 6.30 che ci ha detto come nominare, secondo lei, Erode alla commissione infanzia. Comunque, Micaela Biancofiore alle pari opportunità, Gianfranco Miccichè alla pubblica amministrazione, e anche la stampa dice sicuramente è uno dei nomi che fa più discutere. Poi altre nomine agli esteri arrivano: Lapo Pistelli del PD, Bruno Archi del Popolo della Libertà, e Repubblica fa sapere è stato chiamato a testimoniare al processo Ruby. Mario Giro, Scelta Civica, è sottosegretario, mentre Pistelli e Archi sono viceministri. Al Viminale invece, ministro dell'Interno, arriva Filippo Bubbico del PD, uno dei 10 saggi scelti da Napolitano. E poi il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, è sottosegretario ai trasporti. E ancora altri nomi, se volete. Anche Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretaria alla cultura, ai beni culturali. Tra l'altro viene intervistata Ilaria Borletti Buitoni da Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano, pagina 8, perché il Fatto ha fatto sapere 2 giorni fa che è quella che è stata più generosa a donare privatamente 710.000 euro al suo partito Scelta Civica. E allora Carlo Tecce la intervista. Quei soldi, onorevole Borletti, non è stato facile, nemmeno difficile. Come no, ho fatto un passo più lungo per le capacità delle mie gambe finanziarie. Ma perché si è pentita? No, io credo ancora nel progetto di Mario Monti, anche se qualcuno si defila. C'è spazio per un'alternativa tra destra e sinistra. Ma occorrevano davvero 710.000 euro da dare al partito. Io rappresentavo Monti nella sua Milano contro Berlusconi. Sa la forza economica del Cavaliere? Ed eccola qui la domanda. Si aspettava un ministero? Come potrei ambire a una poltrona? Non è nel mio stile. E infatti, sottosegretario ai beni culturali, nominata ieri sera, evidentemente l'intervista è stata fatta prima. Come potrei ambire a una poltrona? Non è nel mio stile. Sottosegretario ai beni culturali, Ilaria Borletti Buitoni. Anche il Corriere racconta retroscena con Monica Guerzoni a pagina 9. È stata che cosa? Una settantina di minuti di alta tensione sulle nomine, con Angelino Alfano, l'intera delegazione PDL asserragliati nello studio del presidente del Consiglio Letta, rimasto da solo a fronteggiare gli appetiti e le ire degli alleati avversari. Ve la vedete questa scena, no? Proprio la spartizione delle poltrone. E questa raccontata così dal Corriere: problemi di nomi, competenze, ma soprattutto, come di tradizione, di quote, bilancini. C'è sempre il manuale Cencelli, lo storico manuale Cencelli. Braccio di ferro sul nome di Miccichè, che Berlusconi ha fortemente voluto come sottosegretario alla funzione pubblica, con buona pace del ministro D'Alia. Molte le sorprese, tra cui Antonio Catricalà, vice ministro allo sviluppo, riconfermati Marta Dassù agli esteri, Rossi Dori all'istruzione, Maria Cecilia Guerra, mentre non entra a far parte della squadra di servizio un esponente di spicco del governo Monti, vale a dire l'ex ministro Piero Giarda. Ma insomma, racconta Monica Guerzoni di le solite riunioni, ognuno a chiedere posti, bilancini e difficoltà. Il prossimo scontro però già si profila. Se ci sarà questa convenzione per le riforme, la presidenza della convenzione delle riforme è l'ennesimo elemento di divisione. Perché governo, la convenzione, il nuovo scoglio. Questo è il titolo di pagina 11 del Corriere della Sera. Il PDL non cede, dice così: loro hanno già preso, questa presidenza va a noi o non parte. Ecco, la sensazione sempre di sottofondo è quella della spartizione delle poltrone, ma per carità, la politica anche questa poi è una politica oggi di larghe intese, così difficile, alla quale non siamo abituati. È certo che quando c'è la distribuzione dei posti che contano, è difficile far contenti tutti. È già difficile quando a governare è una coalizione cosiddetta unita e monocolore. E su questo tema il retroscena di Repubblica firma Francesco Bei vede di nuovo in campo Matteo Renzi. Convenzione: Renzi stoppa Berlusconi, sarebbe gravissimo farne un padre costituente. Francesco Bei racconta che ai suoi parlamentari il sindaco di Firenze lo ha già anticipato: ora non esageriamo, un conto è fare col governo con il PDL perché non ci sono alternative, altro conto è dare la presidenza della convenzione a Berlusconi. Sarebbe un errore gravissimo accettare che faccia il presidente della convenzione, questo avrebbe detto Renzi, e se serve lo dirò, non è che possiamo arrivare a trasformarlo in un padre costituente. Poche righe sotto invece spunta il nome di quello che sarebbe il candidato numero due per diventare il cosiddetto padre costituente, presidente della convenzione delle riforme per Repubblica, Roberto Calderoli. L'economia e la situazione economica, campeggia su tutto la decisione della Banca Centrale Europea con il governatore Mario Draghi di tagliare il costo del denaro ridotto dallo 0,75% allo 0,5% e soprattutto il messaggio, come racconta il Sole 24 Ore con Alessandro Merli a pagina 3, è che Mario Draghi ha detto: siamo pronti a tagliare ancora. Questo per contrastare la recessione. La recessione dell'Eurozona, scrive Merli, la brusca frenata dell'inflazione hanno indotto la Banca Centrale Europea a tagliare i tassi di interesse di 25 punti base al minimo storico di 0,50. Il presidente Draghi non ha escluso ulteriori ribassi nel caso di ulteriore peggioramento delle condizioni macroeconomiche, neppure un'eventuale riduzione in territorio negativo del tasso che la BCE paga sui depositi delle banche presso l'Eurotower. La BCE, che ha tagliato anche il tasso marginale al quale presta alle banche overnight dall'1,5 all'1%, ha esteso inoltre fino alla metà del 2014 la concessione di finanziamenti illimitati a tasso fisso alle banche. Ha detto Draghi: la mancanza di liquidità non può essere la scusa per non fare prestiti. E, insomma, pronta ad altre riduzioni, una mossa certamente storica che porta al minimo storico. Tutto questo nel giorno in cui il premier Enrico Letta, dopo aver fatto un tour europeo, ha rilanciato sull'importanza di lanciare il tema del lavoro. Il lavoro è la priorità, lo ha detto anche ieri, non si può aspettare, racconta Barbara Fiammeri a pagina 7 del Sole 24 Ore. Ci vuole la guerra alla disoccupazione, in particolare la disoccupazione giovanile. Tra l'altro il neo ministro Giovannini ha detto che verrà modificata anche la riforma Fornero in questo senso, per dare più flessibilità in entrata. Il premier Letta, al termine dell'incontro con il segretario dell'OCSE Angel Gurria, rilancia con forza quella che ha definito la stella polare dell'azione, della vita del governo, vale a dire il tema del lavoro. Ecco, questa è la stella polare, come dice Letta, ma in realtà si discute sempre dell'IMU, l'IMU, questo nel gioco politico è il tema di discussione, tanto che ieri l'ex premier Mario Monti ha detto: vedo quasi un'ossessione morbosa da parte di alcuni a discutere di questa tassa. Il Manifesto titola così a pagina 3: con l'IMU puntata alla tempia. Il tema è sempre quello. Il rigore, a cui ha richiamato ancora anche il neo ministro dell'economia Sacco Manni, che ieri ha detto, come racconta il Sole 24 Ore a pagina 9 con Marco Mobili, lo sforamento del deficit al 3% è invalicabile, cioè impensabile. Il limite del 3% del rapporto deficit-PIL è invalicabile, soprattutto prima la chiusura della procedura di disavanzo eccessivo da parte dell'Unione Europea e poi l'aggiornamento al documento economico finanziario. Lo sforamento riduce i margini di flessibilità, aumenta i rischi di sanzione. Insomma, un Sacco Manni che sta richiamando al rispetto di tutto quello che abbiamo pattuito anche con l'Europa, il rigore per l'appunto. D'altra parte, insomma, c'è l'IMU, bisogna togliere quest'IMU e bisogna trovare i soldi, tanto che Libero la mette così a pagina, in prima pagina e anche a pagina 3. Letta non dura. Questo è Maurizio Belpietro, lo scontro sull'IMU, la rigidità dell'Europa, le fortissime tensioni nel PD, gli appetiti di Renzi, i mal di pancia nel PDL, troppi fattori contro il neopremier, racconta Maurizio Belpietro. Non è eccesso di pessimismo, ma far pendere la bilancia verso l'ipotesi di un'esistenza breve delle larghe intese sono tutti questi elementi, tanto che mette libero anche gli scommettitori bookmaker, che dicono anche in Inghilterra durerà al massimo 6 mesi. E chi lo sa. E allora siamo qua alle 7:47 minuti, intanto, anzi ormai 7:48 minuti, Raffaele Bonanni, segretario della CISL, rilancia quello che ha detto in comizio il 1° maggio in un'intervista al Fatto Quotidiano. L'ipotesi di Bonanni è questa: facciamo come negli Stati Uniti, chi evade va in galera, chi evade il fisco, ovviamente il titolo è un po', sembra un po' anche strano, chi evade va in galera, chi evade il fisco va in galera. Quando dal palco del 1° maggio Raffaele Bonanni ha espresso questa idea di inasprire le sanzioni penali per reato di evasione fiscale, non scherzava. Nell'intervista a Salvatore Cannavò sul Fatto a pagina 6 la rilancia: sappiamo bene qual è la legislazione vigente, ma nel corso degli anni c'è stata una diffusa depenalizzazione, dice Bonanni, l'evasione fiscale è diventata di fatto un reato amministrativo. Invece tutte le evasioni, tutte le risorse rubate allo Stato vanno rubricate come reato penale. È assurdo pensare che si vada in galera solo se si evade almeno 50.000 euro. Dunque la domanda è: i Dolce Gabbana, i Valentino Rossi devono essere perseguiti penalmente? Certo, risponde Bonanni. Finché non ci sono pene esemplari, l'evasore sarà indotto a evadere, perché se viene pescato sa che ci sarà il patteggiamento. Una norma civetta che considero inconsistente. Io sono stato l'unico a sostenere Equitalia quando sembrava che i criminali fossero coloro che pagano le tasse. Dunque un Bonanni che rilancia: facciamo come negli Stati Uniti, chi evade va in galera. Questo è messo nel titolo, farlo tornare senza sconti un reato totalmente penale. C'è da parlare ancora della vicenda delle tensioni dopo l'attentato di Preiti. Certo, l'audio del professor Becchi, le dichiarazioni rilasciate da Zanzara, che trovate anche sul sito radio24.it se volete approfondire, perché ieri lui ha detto stavo scherzando. Sì, ha detto sto scherzando, ma poi la frase l'ha detto: non ci lamentiamo se poi qualcuno imbraccia i fucili tra qualche mese, visto che abbiamo messo un altro banchiere al Ministero dell'Economia. Sì, certo, scherzavo, e lo so, ma in questo momento forse non si può scherzare, anzi senza il forse, su queste cose. Non lamentiamoci se c'è chi prende i fucili, questo è il titolo che riprende l'audio della Zanzara, che trovate su tutti i giornali. Ma su questa, Paolo Becchi viene intervistato anche dal Secolo XIX, dice: ora farò un passo indietro, dopo essere apparso ieri a Servizio Pubblico non apparirò più in televisione, la mia ultima uscita pubblica, staremo a vedere. Comunque quello che mi ha davvero infastidito della vicenda Preiti l'ho trovato su Repubblica, e quando io ho letto questa notizia, come dicevo alle 6:30 anche in apertura di programma, volevo sfasciare il computer, lo schermo, oltre che stracciare Repubblica, che non c'entra niente, ma nel senso per la notizia che ho letto. E vale a dire questa, la trovate a pagina 12, riguarda Preiti, Luigi Preiti, che in carcere, udite udite, ora vorrebbe scrivere una lettera alla figlia del carabiniere Giangrande. Perché? La notizia, queste sono le parole, secondo Repubblica, nell'articolo di Maria Elena Vincenzi attribuite a Preiti. Sentite, questa non è da mani sul volante, dovete fermarvi un attimo a accostare, perché altrimenti io non rispondo di quello che può succedere. Preiti, la notizia che questa ragazza era rimasta senza mamma 3 mesi fa e che ora per colpa mia rischia di perdere pure il papà mi ha devastato. Ma come? Ma sei tu, imbecille, che hai sparato o siamo stati o sei stato qualcun altro? Cioè, prima va in piazza, spara a 1 metro in faccia a un carabiniere e poi dice la notizia che la figlia di questo carabiniere aveva già perso la mamma e ora rischia di perdere anche il papà, mi ha devastato. E quindi, racconta Repubblica, ha chiesto occhiali per poter leggere e scrivere e chiedere scusa. Vuole spedire una lettera alla figlia di Gian Grande. Ancora non sa cosa scrivere, ma certamente sa che si vuole scusare con la 23enne e con il padre. Questo Luigi Preiti. C'è un'altra lettera invece che Repubblica mette in pagina a fianco a quest'articolo. Potete riprendere comodamente la marcia con la vostra macchina se vi è passata la rabbia. Tania Dan, vale a dire la cognata di Preiti, quindi è la sorella dell'ultima moglie di Preiti, scrive a Repubblica: caro direttore, il titolo è "Sparare non è mai la soluzione". Caro direttore, da quando ho appreso la notizia che ho deciso di scrivere a Luigi, ho avuto bisogno di tempo per ragionare su cosa aveva fatto. Sto male per mia sorella, mia madre, per suo figlio. Sto male anche per lui, continuo a chiedermi cosa è successo a Gino, che ha fatto in questi ultimi anni, quanto soffriva. Sai Gino, molte persone con cui ho parlato hanno commentato: era inevitabile che qualcuno prima o poi sparasse all'istituzione. È stato anche il mio primo commento quando ho sentito la notizia, senza sapere che eri stato tu. Ora rabbrividisco quel pensiero fatto da un gran numero di persone, tra cui l'onorevole Cecconi del Movimento 5 Stelle, che ha detto: se Preiti sparava un'auto blu era più giustificato. Ecco, tutto questo mi fa rabbrividire. Ora mi rendo conto di quanto dolore hai generato. La soluzione al disagio economico non possono essere bambini col padre in carcere e famiglie rovinate. Ricordo le tante discussioni che abbiamo avuto con persone con idee politiche diverse. Ora ascolto questa parte di popolazione che è solo stanca e comprende il tuo gesto. Io mi rivolgo a tutte le persone che hanno scritto post inneggiando al gesto di Luigi, per dire loro che è ignobile strumentalizzare un gesto folle e disperato per il loro dissenso, senza tenere in considerazione che c'è un bambino ancora non in grado di capire e che da zia mi auguro possa rifiutare l'idea di risolvere i problemi sparando. Così la cognata di Luigi Preiti, che vuole scrivere alla figlia di Gian Grande. Non l'ho ancora fatto, fermati, non farlo. 24 mattino. Hey, where are you going? Shoot my new cricket rifle. I wish I had one. My first rifle. A moment you never forget. Lo sentite questa pubblicità in America? È la pubblicità del mio primo fucile, un qualcosa che non potrai mai scordare. La pubblicità per i fucili per i bambini. Find yours online or ask for a cricket rifle at your local dealer. E insomma, è la pubblicità del cricket, una gamma di fucili appositamente studiati per i bambini che vengono venduti in America. Per chi conosce l'inglese, lo slogan forse l'avete sentito: il mio primo fucile, un momento che non scorderò mai. Con questo fucile, che è disponibile anche in versione rosa per le bimbe, a Burksville nel Kentucky, un bimbo di 5 anni, Christian, 2 giorni fa ha sparato e ucciso la sorellina Caroline di 2 anni. Una tragedia, certo, la madre che dice di aver lasciato i bimbi a giocare da soli, l'imprudenza di aver lasciato il fucile carico quando si pensava che fosse scarico, ma certo negli Stati Uniti, dove il dibattito sull'utilizzo, la diffusione delle armi è un dibattito già infuocato, ritornano ovviamente le polemiche. Oggi su tutti i giornali italiani c'è almeno una pagina dedicata a questo tema. Uccide a 5 anni con un fucile avuto in dono, così titola per esempio il Corriere della Sera con una pagina di Guido Olimpio. Noi ne vogliamo parlare, anche se ovviamente il punto di vista italiano è sempre un po' diverso. Dobbiamo tenere presente che negli Stati Uniti il diritto a detenere le armi è sancito dalla Costituzione, dal secondo emendamento, anche se su questo secondo emendamento ci sono state poi delle controversie anche giudiziarie che continuano negli anni. Comunque gli Stati Uniti è nell'immaginario collettivo il paese dell'estrema libertà, anche dell'estrema libertà di poter comprare un'arma in alcuni stati più regolati, in altri stati meno regolata, e della anche libertà e ovviamente della facilità per questo di compiere delle stragi. Ne vogliamo parlare con un corrispondente d'Italia del Wall Street Journal e anche un freelance dell'ANSA, Aaron Mains, che saluto. Buongiorno e benvenuto, Aaron, eccoci. Buongiorno a tutti. Saluto anche Maurizio Piccolo. Buongiorno Piccolo, lei è presidente dell'AUDA, Associazione Utilizzatori delle Armi. Buongiorno Piccolo. Esatto, buongiorno. Senta, la possiamo in qualche modo, per spiegare agli ascoltatori, associare un po' alla ben più potente NRA, quella che c'è in America, cioè la National Rifle Association, che è l'associazione che più si batte per la libertà di detenere le armi? Ma diciamo che la nostra posizione è leggermente diversa, siamo più identificabili con la NSSF, che è un'altra organizzazione che vede l'uso delle armi anche per maggior parte l'utilizzo sportivo, non solo per difesa, anche se nel nostro statuto vogliamo la riforma dell'articolo 52, perché in Italia il codice penale non tutela chi si vuole difendere. Chi si vuole difendere? Però adesso quindi diciamo che sono due le organizzazioni che in sono America nostro idolo, non una sola. Che sono nostro idolo addirittura. Beh certo, perché mi scuso, ma partiamo già male da un punto di vista, cioè stiamo già vedendo di fare un discorso di riforma di una legge sulle armi partendo da una follia, cioè sarebbe come se uno avesse fatto 3 chilometri in autostrada contro mano e si volesse riformare il codice della strada. Però guardi che non è che se ne parla solo qui, se ne parla anche negli Stati Uniti e credo, mi faccia coinvolgere per questo Aaron Mains, che ci può aiutare a capire intanto questa tragedia, che per carità è una tragedia molto singola rispetto magari alle tragedie che con l'ultima di Newtown ovviamente è l'ultima di una lunga serie, ha fatto più discutere, ma ha fatto discutere anche questa vicenda, cioè di un bambino di 5 anni che ammazza la sorellina, e a che punto è il dibattito sulla questione diffusione delle armi negli Stati Uniti, Aaron? Ma allora, anzitutto penso che purtroppo quest'ultimo avvenimento, cioè quello della sparatoria dell'altro giorno col fucile giocattolo, sarà passato, non dico inosservato negli Stati Uniti, ma quasi. Io penso che l'unico evento che ha mosso le acque da noi sia stato quello di Newtown nel Connecticut. È un nostro enorme problema questo fatto di una specie di apatia culturale, siccome che noi abbiamo le armi e abbiamo i diritti alle armi sin dall'inizio, cioè sin dalla nascita, fa parte della nostra cultura, allora molte cose viste giustamente come straordinarie tragedie qui da queste parti, da noi passano, non dico inosservate, però quasi. Ma io infatti l'ho detto come premessa, cioè forse noi abbiamo un approccio culturale diverso, l'ho proprio detto volutamente. Negli Stati Uniti, ricordiamo, il secondo emendamento garantisce la libertà di detenere armi. Quando uno parte con questa premessa, tutto quello che può succedere di conseguenza, Aaron, correggimi se sbaglio, viene vissuto con una prospettiva diversa rispetto a quello che è magari la percezione dall'Italia. Sì, questo sì, anche se paradossalmente non, è ovvio che non intendevano mai i founding fathers nostri, non intendevano mai queste cose dei giocattoli bambini o armi d'assalto, tutto questo viene dopo. Viviamo in un paradosso assurdo. Mi ricordo che pochi giorni fa il New York Times aveva pubblicato un articolo nel quale sottolineavano che circa il 90% della popolazione, 80-90, non mi ricordo il numero preciso, era a favore di un incremento nei bans, cioè di rendere più difficile l'acquisto di un'arma. Nonostante questo, abbiamo il Senato, abbiamo il governo che ha bloccato questa cosa. Esatto. E su questo magari poi muove i piedi. Certo, poi magari ci farei capire anche se le lobby, che in America sono molto potenti, come quella dell'NRA, di queste associazioni, fanno pressioni sulla politica. Vorrei tornare per un attimo a Maurizio Piccolo, come detto è presidente dell'associazione utilizzatori delle armi. Perché lei dice che l'approccio, diciamo, è sbagliato, cioè teme che discuterne sull'onda emotiva di una vicenda del genere possa in qualche modo alterare i termini del discorso e del dibattito? E perché, le chiedo, lei dice, noi difendiamo il diritto a utilizzare, a detenere un'arma? Mi sembra ovvio che l'arma dà la possibilità di difendersi a chi normalmente invece è succube di un atto di violenza, quindi è già una garanzia nella quale io credo, come credono gli americani. E ripeto, secondo me tutto questo che sta succedendo ha una scusi, è molto molto da Far West quello che lei ha detto all'inizio, cioè l'idea di difendersi dalle aggressioni. È da Far West, mi scusi, è come uno che va a fare un corso di difesa per arti marziali, allora che cos'è? Per forza un delinquente? No, no, sarà per difendersi dai delinquenti. È l'errore tipicamente italiano di concepire che chi possiede armi sia un violento. E qui l'errore di base. Ma questo, perché... guardi che forse nessuno l'ha detto. No, forse... è già il pensiero. No, ma non è il pensiero. No, guardi, nessuno, non ci lega nel pensiero. Se così fosse, e le ho fatto il parallelo prima e glielo rifaccio. Sempre ieri, allora, in India, è una notizia abbastanza eclatante, è stato arrestato una persona che ha fatto guidare il Ferrari al figlio di 9 anni. Sì. È la stessa pericolosità e la stessa follia. La differenza sta fra un'automobile che poteva tirare sotto 10 persone e un'arma che poteva ammazzare 10 persone. Ma certo, persone. Però piccolo, mettiamo un po' i puntini sulle i. Nessuno qua pensa assolutamente che chi detiene un'arma per uso sportivo in Italia sia un folle, o anche perché la detiene che ha il porto d'armi regolare sia un folle, sia un violento. No, io non lo penso e nessuno lo pensa, voglio dire. Ma lei non crede che è naturale che se si permette una diffusione o la possibilità di accedere a un'arma, come succede negli Stati Uniti, purtroppo aumenta la percentuale che quest'arma vada anche nelle mani sbagliate? No, non è una banale statistica? Esattamente l'inverso. È l'inverso. Lo stesso errore per la quale in Italia vengono fatte le leggi pensando che i delinquenti vadano a comprare le armi in armeria. Infatti tutte le limitazioni che vengono messe col concetto che il delinquente va a prendere l'arma in armeria. Vediamo la cosa più semplice, l'arma automatica, che differenza fa una mitragliatrice da una pistola? Nessuna, è pericolosa, giusto? Sì. In Italia è proibita, perché? Perché il concetto è il pensiero che viene messa in circolazione un'arma pericolosa, ma perché si presume già che abbia una pericolosità che non deve avere, per il semplice fatto che... Ma la pericolosità non è nell'arma stessa, ma nella facilità, ripeto, con la quale in alcuni stati come degli Stati Uniti, ha fatto vedere di recente, credo, sulla CNN un servizio in cui in mezz'ora un inviato della CNN ha potuto comprare un fucile. Cioè lei non crede con... Vediamo ovviamente... esattamente l'inverso, mi scusi. Ma lei non crede che, voglio dire, può andare a comprare il fucile uno che ha le migliori intenzioni, ma può andare a comprare il fucile anche uno che ha delle pessime intenzioni? È la stessa cosa che avviene in Italia. Diciamo che la legge è diversa, perché lei l'ha dimostrato, le Iene, che ha fatto un servizio con 500 euro in mano, è entrato in armeria e non gliele hanno neanche fatte vedere se non aveva il permesso per vederle, neanche per comprarle. È uscito, ha trovato un gruppo di... chiamiamoli disadattati, si è avvicinato, gli stessi 500 euro nel giro di pochi minuti sono stati trasformati in un'arma con le relative munizioni. Quindi la pericolosità non è nel sistema, nella disponibilità, perché lei, io sono sicuro, che se parte adesso dallo studio e va a casa sua, avrà 100 occasioni di usare cose che potrebbero essere pericolose come un'arma. E che le viene data la possibilità di avere, quindi se lei vuole... No, è interessante questo tipo di obiezione. Vediamo se anche negli Stati Uniti la pensano così. Aaron Mainz è lo stesso, diciamo, opposizione che fanno, per esempio, la NRA. Io la cito come la più importante, insomma. Poi c'è un'altra associazione che ci ha citato, piccolo. Sì, no, ma il punto di riferimento per i diritti delle armi negli Stati Uniti è sicuramente la NRA. Gli altri sono assolutamente secondari e anche a lunga distanza. Io non mi permetto di parlare per gli Stati Uniti in generale, però per me e per molti americani che conosco non sono del tutto d'accordo con l'argomentazione comune anche del NRA, che ogni strumento pericoloso è uguale all'altro. Mi viene in mente un fatto che è successo nello stato di Connecticut, dove sono nato io tra l'altro, negli anni 80, dove c'è un manicomio molto grosso che raccoglie pazienti da tutti gli Stati Uniti, nonché dallo stato del Connecticut. È uscito uno, è stato rilasciato, impazzito, con un coltello a una festa della città, ha coltellato una bambina di 8 anni davanti agli occhi degli stessi genitori. Questo ovviamente è l'atto di un folle, è uno uscito fuori di testa che ha fatto la follia totale, nessuno è riuscito a fermarlo, tant'è che l'ha coltellato una 40 di volte, se mi ricordo bene. Allora, questo fatto aveva una persona chiaramente pericolosa, la pericolosità è data dalla persona, però aveva in mano un coltello. Avessi avuto in mano una pistola, avrebbe fatto fuori 10 bambini e non uno. Avessi avuto in mano una fucile a pompa, piuttosto che un arma d'assalto, cioè un machine gun, una mitragliatrice. Avrebbe potuto fare una delle stragi. Fatto fuori 30. Allora non è uguale, cioè non è lo stesso. Non capisco, io faccio veramente fatica in mano a capire che necessità potremmo avere delle armi d'assalto. Per ammazzare i cervi basta anche l'arco e freccia, voglio dire, basterebbe anche la pistola, non capisco perché abbiamo bisogno di queste armi a dismisura. E sono proprio quelli che vengono usati per le nostre tragedie più eclatanti, quelle che sono diventate, certo, famoso a partire da Columbine. Comunque facciamo così, dopo la pubblicità, 4 minuti, ripartiamo con Iron Mans, che ricordiamo è corrispondente d'Italia Wall Street Journal e freelance dell'ANSA, e con Maurizio Piccolo, presidente dell'associazione utilizzatori delle armi, insomma, su questo dibattito, anche sulla pericolosità che arriva dagli Stati Uniti. 24 mattino. Hey, where are you going? Shoot my new cricket rifle. I wish I had one. My first rifle. Eccola qui, ripartiamo da qui, insomma, quello, lo spot, la pubblicità del fucile Gamma Cricket che viene diffuso dalle aziende produttrici di armi negli Stati Uniti, e con uno di questi fucili questo bambino nel Kentucky, Christian, ha sparato e ucciso la sorellina di 2 anni. Siamo con Aaron Mains, siamo con Maurizio Piccolo. Piccolo, prima di qualche ascoltatore che sono già in linea, le vorrei chiedere proprio questo. Io fatico, ma mi scusi se gliela rifaccio la domanda, fatico a capire come lei possa negare che la facilità di poter accedere a un'arma possa aumentare anche solo statisticamente la possibilità che quest'arma venga anche usata in maniera impropria. Come. E infatti, cioè, il numero di morti ammazzati per armi negli Stati Uniti non è paragonabile statisticamente e proporzionalmente al numero di morti ammazzati con le armi dell'Italia, no? Perché lì sono più disponibili, cioè, mi sembra una cosa talmente ovvio. Lei lo nega questo? Ma lo nego in funzione di un fatto. Non può negare la statistica, cioè il numero di morti ammazzati per pistole o fucili in America. In funzione di un fatto. Allora, il problema è questione di come lo si vede. Stia attento a quello che le dico, che è importantissimo. Se lei vede un'arma e pensa che possa essere responsabile di qualcosa, ovviamente ha ragione lei. Se viceversa lei va ad analizzare il perché questo succede, capirà che l'arma non c'entra nulla. Ora. Beh, ma come non c'entra nulla? È chiaro che è sempre chi la utilizza, la persona, che se perde la testa... Posso dire che lo stesso danno lei lo poteva fare con una motosega. Il problema... Capito, però come ci ha detto Aaron Mains, se avesse avuto invece di un coltello un fucile d'assalto, quella persona avrebbe sterminato 30 persone, non una. Stesso giorno di quello sterminio è avvenuta una cosa mediante l'uso di armi da taglio in Cina che non è giunto neanche all'orecchio di una marea di persone. Per quale ragione? Eppure sono stati feriti 40 bambini in una scuola usando dei coltelli. Con un fucile forse erano 100. No, non è vero. Perché il problema, e infatti la soluzione attuale del problema che è successo in America, è stato che ora zone... Perché succede? Succede perché sono zone no gun zone, quelle dove succedono queste cose, cioè zone dove è proibito l'uso delle armi, e chiaramente un folle ci va a nozze in una situazione simile. Lei dice che è il contrario, siccome sono proibite... ma infatti così. Adesso qual è la reazione? È che stanno dicendo, è giusto che ci siano i poliziotti dove ci sono le scuole, è giusto che i professori possano essere armati, per interrompere questi atti di pura follia, perché se lei va ad analizzare, il problema nasce sempre da personaggi instabili, cresciuti. Ma questo non c'è dubbio, non c'è dubbio che è l'instabilità della persona che compie il gesto alla base, ma se questa persona è instabile, ha un po' più di fatica a trovare un fucile d'assalto, magari, certo che può prendere un martello e dare una martellata in testa a qualcuno, ma se non ha un mitragliatore a disposizione, magari si riesce a limitare i danni, ecco. Però mi faccia sentire qualche ascoltatore. Ma questa è la posizione. Molto, la sua posizione è molto chiara. Prima della replica o comunque un commento da Mains anche su quello che è le lobby delle armi, vorrei qualche ascoltatore. Alberto da Bergamo, buongiorno Alberto. Buongiorno. Dica. Io ho vissuto per 2 anni in Kentucky, in una cittadina molto tranquilla in cui tutti i colleghi giravano, comunque possedevano un'arma, non giravano armati ma in macchina avevano un'arma e ci consigliavano di tenere un'arma in casa per difesa, no? La cosa delirante, a parte che era una cittadina tranquillissima, è che oltre alla considerazione che un numero maggiore di armi ovviamente porta a un maggior numero di incidenti, però è anche un modo diverso di risolvere le controversie, voglio dire, qua al semaforo ti tamponano, litighi, quindi è al limite, civile fa botte. Esatto, io immagino a Milano che si vedono città in cui si vedono dei litigi clamorosi ai semafori, come in tutte le grandi città. Voglio immaginare se uno avesse a disposizione una pistola. Vabbè, lei Alberto concluda. Il delinquente che arriva a casa, diciamo, per rubare in casa, se sa che dall'altra parte ha risposta armata, ci arriva armato e al primo rumore spara. Quindi da noi al limite, cioè quello che ti entra in casa può entrare, probabilmente entra non armato perché non teme per la sua vita, poi ci sono le eccezioni per carità, però anche questa dinamica del fatto che la risposta armata prevede anche una domanda armata di quello che arriva con in mano. C'è una questione di domanda e risposta. Grazie Alberto, vorrei andare a Milano da Massimo. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Volevo anch'io sintetizzare brevemente su alcuni punti. L'incidente del bambino di 5 anni, se invece di essere stato premesso solo possessore di un'arma, titolare di un porto d'armi sportivo, e quindi la mia posizione è sicuramente diversa dall'ascoltatore che mi ha preceduto. Sì, vabbè, dica la sua, è bene per questo, dica. Esatto, allora se l'incidente fosse avvenuto, se il bambino di 5 anni avesse preso un coltello da cucina e avesse dato una coltellata alla gola alla sorellina per gioco, staremo qui a parlare di... Lo so Massimo, però è sempre, io dico va bene, ma è sempre la solita argomentazione, non ce n'è un'altra che ne avete, voglio dire, difensori di questa cosa. Sì, lo sappiamo che poteva dargli una martellata, poteva dargli una coltellata, quindi dice anche il fucile è solo uno strumento come un altro. Non so, Aaron Mainz, l'opposizione è sempre questa, cioè dice non è, il problema è i controlli, il problema è in quel caso i genitori sicuramente che hanno lasciato un bambino di 5 anni col fucile puntato, il problema è chi utilizza che cosa, non tanto il cosa, cioè l'oggetto. Aaron. Sì, ed è una punto di vista che personalmente faccio una gran fatica solo di capire, lasciamo stare essere d'accordo, e non è affatto lo stesso, anche lo stesso ragazzo che ha guidato una Ferrari in India, avesse colpito una folla di gente, comunque deve mettere in atto tutta una serie di capacità per colpire. Sì, ma poi quella è una cosa illegale, cioè guidare una macchina a 9 anni è illegale, quindi uno se fa una cosa illegale può, mentre comprare un fucile è assolutamente legale negli Stati Uniti, anzi. Infatti io ritengo una nostra grande vergogna questa realtà delle armi, cioè capisco come è nato, da americano capisco anche la storicità del nostro diritto alle armi, però a giorno d'oggi è innegabile, io sono pronto a scommettere, una scommessa che ovviamente non vorrei mai fare, tanto meno vincere, ma se in Italia fosse liberalizzata l'accesso alle armi, anche in modo, diciamo, non uguale agli Stati Uniti, ma paragonabile agli Stati Uniti, vedremo nell'arco dell'anno dopo, ma già subito vedremo un innalzamento dei morti, garantito. È innegabile che qui l'arma permette un tipo di uccisione, un tipo di danno che altri strumenti, tra virgolette, non permettono. È un conto sparare a distanza di 2 metri a una persona ed è un conto infilzare proprio un coltello tra le costole. Tra l'altro, cosa succede negli Stati Uniti? Perché il presidente americano Obama ha fatto anche pressione al Senato, e perché non passa al Senato ciò che il presidente Obama vuole? Perché la NRA ha in mano molti politici. Esercizza un potere enorme, non oscuro, non è che succede fuori la luce del sole. La semplice realtà è che l'NRA vanta tantissimi membri, è molto organizzato, è un ottimo lobby, forse tra i migliori degli Stati Uniti. Anche perché la lobby negli Stati Uniti è un qualcosa di perfettamente legale, strutturato e regolamentato, e quindi è un esercizio assolutamente legittimo. Sì, e ci sono anche dei lobby che fanno cose meravigliose, lobby per abolire la pena della morte, per dire. Quello dell'ENAR è particolarmente ben strutturato, particolarmente ben organizzato e vanta una cassafonte veramente illimitato, e quindi fanno una gran fatica a votare a favore i senatori, perché sanno benissimo a cosa vanno incontro, cioè perdono voti, perdono la posizione. Io vorrei sentire ancora Maurizio Piccolo. Lei crede che questo dibattito negli Stati Uniti non sia, voglio dire, dopo anche l'ultima strage in Newtown, ce ne sono state di stragi, non sia sia un dibattito falsato, dice, sbagliato, perché partire a parlarne da queste stragi è un punto di vista sbagliato. Lei insiste su questo punto? No, io dico che praticamente, se voi aveste ascoltato quello che avete detto che questa gente sono una marea di stupidi. Questa gente qua? Questa gente qua? No, ma mi lasci finire. No, ma quale questa gente? Questa gente quale? Allora, questa gente che fa lobby, già li avete condannati, ma... Ma perché ci mette in bocca stupidi? Abbiamo detto che fare lobby è perfettamente, tra l'altro, una cosa assolutamente legale e legittima. Ma gli avete già dato torto. Adesso però mi permette di rispondere a quello che lei ha detto prima. Lei prima ha parlato di statistiche. Bene, parliamo di una statistica. In Inghilterra hanno tolto le armi ai civili completamente. Quindi sarebbe quello che pensate di fare voi, no? Che cosa è successo? Il risultato è che è aumentata la criminalità in maniera esponenziale. Sono statistiche, non sono cose inventate dal sottoscritto. Quindi io rinforzo la mia affermazione di prima. Sì. Le armi messe nelle mani giuste possono solo dare dei risultati. Ma scusi, giusti. Però non è che diminui, cioè lei è il concetto, non è che diminuirebbe il crimine con le armi, semmai aumenterebbe la forza di difesa di chi viene aggredito, ma non è che no? Cioè di rispondere a un crimine, ma il crimine avviene in Italia, le persone in divisa vanno a cercare chi non è in regola, di chi dichiara le sue armi in regola. Perché non vanno a cercare quelli irregolari che ne abbiamo piene l'Italia? E lo ammettono, perché tra l'altro anche i giornalisti hanno dato la notizia ultima dell'attacco che c'è stato davanti a Palazzo Chigi, come fosse una cosa normalissima. In Italia è considerato il porto d'armi libero per i delinquenti perché motivo professionale. Ma perché? Chi l'ha detto? Chi l'ha scritto? Vogliamo prendere il nostro cervello e utilizzarlo e capire quali sono le cose giuste e quali sono le cose sbagliate. Allora andiamo intanto alle informazioni sul traffico. Eccoci qua, ma lei Maurizio Piccolo lo regalerebbe, come se fosse negli Stati Uniti, un fucile cricket a suo figlio? Allora, ci sono delle riproduzioni di fucili normali, sì, in versione piccola per bambini anche in Italia, ma non lo regalerei per il semplice fatto che mio figlio non gli piacciono le armi, cioè non è appassionato, glielo ho chiesto, c'ha 15 anni. Adesso, vabbè, idealmente, cioè non la sconvolge l'idea che comunque ci sia una pubblicità e che una famiglia regali al bambino di 5 anni un fucile. Ma a me sconvolge, mi scusi, forse non ci capiamo, a me sconvolgerebbe l'idea che si possa fare una motosega a uso bambino e venga lasciata al bambino che la sa accendere schiacciando un bottone. E infatti è non questo viene il problema, infatti non è quello. Infatti non viene fatta. Infatti. Ah, no, ma viene fatta perché se vedessero che c'è il mercato lo farebbero. Capisce? Quindi e questo è un altro discorso. Questo... Il colpevole non è lì, il colpevole è capire che è folle, in quanto il calibro 22 che è stato l'attore di quel fatto in America, è un calibro che è letale a 500 metri di distanza, letale. Lei lo dà in mano a un bambino? Allora, ma non lo chieda a me, no? No, ma è per farle capire. Sì, sì. La cosa bisogna vederla con un minimo di testa e dal punto di vista tecnico. Certo. Però io continuo a insistere che, ripeto, non è che se lei dà la possibilità di armare le persone si riduce per questo il crimine. Si aumenterà la capacità di risposta che lei ha. Non è vero, riduce automaticamente a casa sua, perché sanno che lei non è armato. Guardi che con questo principio... Vengono a svuotare la casa, ma non è vero, hanno ragione. No, guardi che non è così, perché con questo principio ci dovrebbero essere meno crimini laddove c'è la pena di morte, cioè negli Stati Uniti... La pena di morte non fa paura a nessuno, perché quando... beh, come no? Perché, scusi, per allora favore. Perché deve far paura sapere che lei ha un fucile in casa? Io vengo con tre fucili e vediamo. Se lei gentilmente mi ascolta, mi lascia parlare, sì. Lei può poi evitare di fare delle affermazioni fine a se stessa. Sì. La pena di morte non spaventa perché è un gioco alla roulette, se le va bene le va bene, se le va male non soffre. Anche fare una rapina in casa è una roulette, posso dire, avrà un'arma? Non lo so, non avrà un'arma, intanto io entro e faccio una rapina. Già che non ce l'ha, infatti come è successo in Inghilterra, appena hanno tolto le armi ai civili, sono aumentati drasticamente i furti in casa. Vediamo, Aaron Mainz, anche statisticamente, ci può aiutare su questo, cioè negli Stati Uniti, laddove ci sono più armi, la gente, non so, è impaurita e quindi non compie crimini perché ha paura di una risposta armata, per esempio, non so, di fare un'irruzione in una casa? Ma nella mia esperienza il criminale non è che sta tanto a ragionare su questi fattori. Cioè una persona che ha bisogno e quindi commette un crimine o per bisogno o per follia o per che motiva sia, non credo che stia lì a pensare più di tanto se uno è armato o meno. Le armi fanno parte della vita da noi e quindi non ci si sofferma tanto sul concetto. Capisco i ragionamenti dell'NRA, capisco i ragionamenti di chi sostiene per una maggior diffusione delle armi perché risponde a una paura viscerale. E gioca sempre su questa paura viscerale, l'idea che io posso proteggere la mia famiglia, i miei cari, il mio figlio, avendo un'arma, e l'idea di non avere quell'arma in quel momento d'emergenza mi spaventa a tal punto che dico sì o che lo prendo. Il problema è che non questa cosa, questo ragionamento ha in realtà per pochissime persone al mondo, perché per fortuna viviamo in una società civile dove non ci si spara, almeno si spera che non ci si spara spesso. Sentiamo Franco da Rimini, buongiorno Franco. Sì, buongiorno. Dica. Vi sto ascoltando da circa 20 minuti e credo che sia quasi una fantascienza pensare che con un'arma in tasca ci si possa difendere, si possa essere invincibili. Io l'ho avuta per 20 anni circa, 16 precisamente, per mestiere. E avevo un'altra età, adesso sono un po' anzianotto. E se ripenso a quei tempi, al pericolo che ci poteva essere, che potevo subire, perché comunque, sì, sei armato, ma comunque ti difendi da uno che è armato come te. Sì. E per bene che ti vada lo uccidi. Ma poi ti va male per tutta la vita perché hai ammazzato una persona. Franco, lei poi dice non è che con un'arma ci si senta invincibili, dice questo anche Maurizio Piccolo, non l'ha mai detto, però dice c'è la possibilità di difendersi nel caso di un'aggressione. Ecco, sì, poi è chiaro. Poi guardi, io venivo dal mondo dell'oreficeria. Della? Oreficeria. Poi le notizie si sentono, no? Sì. Il gioielliere che uccide il bandito. Poi ha rovinato per tutta la vita comunque, perché ha ucciso una persona. Non è che si è difeso da che cosa? Eh beh, insomma, in quel caso però, se, come non si è difeso da qualcosa? Dipende, da cosa? Se c'è un'aggressione armata. Certo che sì, certo che puoi togliere la vita a una persona è qualcosa con cui fare i conti. Eccolo però là, poi, vede, certo, ma certo, non credo. Però in quel momento la persona è aggredita. Che guardi, può succedere di doversi difendere in quel caso. Sì, perché... sì, ma appunto per quello che non bisogna avere che... difendersi in quel modo. Ho capito, ma è chiaro che in un mondo perfetto non ci sarebbero le rapine in gioielleria e nessun gioielliere vorrebbe mai trovarsi in una situazione del genere a sparare. Però io, i miei 16 anni di esperienza mi dicono che non è la strada giusta, non è la strada per giusta. Va bene, grazie Franco da Rimini per questa testimonianza. Maurizio Piccolo, le faccio questa domanda diretta, torno sempre un po' al punto, ma perché secondo lei negli Stati Uniti ogni tanto succedono queste tragedie, Columbine, Newtown, l'ultima, e in Italia no? Non credo che negli Stati Uniti ci siano più matti che in Italia. Cioè, come gli ho detto, ci sono i matti in Italia, ci sono i matti negli Stati Uniti, in Bangladesh, in India. È questione di psicofarmaci, gli ho detto, che è una cosa completamente diversa e che sta a indicare che ci sono persone che hanno vissuto delle situazioni negative e hanno delle reazioni incontrollate. Ma queste ci sono in tutto il mondo? Ci sono... Non è vero, perché lei guardi, ci sono paesi dove sono pieni di armi e queste cose non succedono. anche qui in Europa, ma poi non andiamo distanti, guardi che in Italia di armi non ce n'è in giro poche, ce ne sono tante, eppure non succedono, perché in Italia, contrariamente a quello che lei ha pensato prima, non siamo persone così violente. Ancora, ma io non ho pensato nulla, ma perché continua a mettermi in bocca delle lei, cose? Ha detto, mi immagino a Milano come verrebbero risolti gli incidenti in automobile. Beh, in alcuni casi sì, lei le ha viste certe persone le ha viste, scendono col crick per dartelo in testa, secondo avessero una pistola, magari, no? Succede a volte, no? Le vuol mettermi in bocca delle parole che non ho detto, ma le sto dicendo. L'aggressività esiste in percentuale, come ha detto lei, ma io non vedo risolvere tutte queste cose tutte in questa maniera. Anche perché mi sono trovato io personalmente in condizioni, per un incidente, di trovarmi con uno che possedeva un'arma in maniera irregolare, eppure non è finita pistolettata. Meno male. È normale se uno c'ha del cervello. No, dico meno male, ho detto meno male. Meno male, ma perché c'è del cervello, è questo che voglio farle capire. Va mentre bene. Qui si pensa sempre che è un discorso da decelebrati. No, è ma come... questo ancora. Una... guardi, ma piccolo... mi scusi un attimo, guardi, no, uno devo... che fa un'affermazione. Devo chiudere perché sennò sforo. Magari torneremo su questo tema, però non insista a dire che abbiamo detto che chi ha un'arma è un violento. Nessuno l'ha detto, cioè ce lo sta mettendo in bocca lei. Comunque la ringrazio per questa puntata. Maurizio Piccolo, presidente dell'Associazione Utilizzatori delle Armi, e Aaron Mains, corrispondente del Wall Street Journal in Italia. Saluto tutti, vi ricordo che Alino Milan è il mio profilo Twitter, se volete, oppure 24 Mattino è il profilo della trasmissione. Da Miriam Lucchetti, da Alessandro Longoni, da Elisabetta Fusconi, da Valentina Magri, da Peter Bescapè, l'Alpino. Pronto? Ci ritroviamo. Ah, ecco, infatti. Lunedì alle 6:30. Quattro mattino.